La mia vita presente non ha niente di brillante, non mi chiedo perché, ma la misura qual è? Mi corrodono le trame dell'ipocrisia, sono il tragediografo dell'esistenza mia. Guardingo ma turbato, cerco casa che non c'è, in una landa desolata, la mestizia cresce in me, un naufragio rallentato, la salvezza no, non c'è, e mi ritrovo disperato. Della mia fede in qualcosa di concreto, io spurgo la mia anima da un torbido segreto, trascendo dalla gioia come dal colore di Goya, mi resta da sperare che io muoia dalla noia, grottesco, vagabondo, animo ingenuo e fanciullesco, mi approccio nauseato al mio sì tristedesco, parole su parole mi sotterrano impietose e annaspo nell'attesa mentre tanto combatto l'esistenzialismo con la figa e con i videogame, lottando, vivendo, sempre combattendo la figa e con i videogame. Trasforma in qualcosa di malvagio, che sia vigile o che io dorma, è profondo il mio disagio, e si para innanzi a me l'infinito oblio del dubbio, e la speranza ormai dov'è? Tutto è abbandonato da fortuna e fantasia, mi ritrovo rassegnato ad una forma di pazzia. Un matto assai cosciente, molte volte indifferente, ma continuo ad andare avanti per me. Tanto combatto l'esistenzialismo con la figa e con i videogame, lottando, vivendo, sempre combattendo la figa e con i videogame. Con la figa e con i videogame.